perché sei tu che porti il sole e non c'è niente al mondo di migliore di te, nemmeno vincere un milione. Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio, è un conto alla rovescia, col tempo a rilento, però ti sto aspettando come aspetto un treno, come mia nonna aspetta un terno. Aspetterò che torni come aspetto il sole, mentre sto camminando sotto un acquazzone, come una mamma aspetta quell'ecografia. Spero che prenda da te, ma con la testa mia. Ti aspetto come lì ti aspettano l'estate, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale, come i signori col cartello aspettano gli arrivi, e non è mai per me. Ti aspetterò come il caffè a letto a colazione, come un concerto dall'inizio si aspetta il ritornello di quella canzone. Ti aspetterò perché sei tu che porti il sole, e non c'è niente al mondo di migliore di te, nemmeno vincere un milione. Non c'è niente. Così se poi mi raggiungi e poi ti stringo forte, questa volta non sfuggi, non ti perderò più. Aspetterò che torni come aspetto il mare, mentre sto camminando sotto il temporale, come una mamma aspetta il figlio fuori scuola. Ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora, ti aspetto come il gol che sblocca la partita, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ma già l'attesa è fantastica, noi come benzina in questo mondo di plastica. Ti aspetterò come il caffè a letto a colazione, come un concerto dall'inizio si aspetta.